bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time sulle frequenze di Radio Wombat. Iniziamo subito con la musica ed iniziamo con una voce contemporanea. La voce contemporanea in questione è quella di Charles Bradley, un cantante che personalmente mi piace tantissimo. Charles Bradley è nato nel 1948 ed è un cantante funk, soul e R&B che registra attualmente per la Dubtone Records. Il suo stile, la sua musica è assolutamente coerente con quello che è lo stile revival della Dubtone, quindi che va a celebrare i suoni e le atmosfere funk e soul tipiche degli anni 60 e 70. Il brano che ci andiamo ad ascoltare di Charles Bradley è un brano, come si suol dire, molto molto intenso, con delle tematiche importanti dal punto di vista sociale. Si intitola How Long e lui è Charles Bradley con la sua band, The Menahan Street Band. Questo era Charles Bradley and the Manhattan Street Band con How Long. Quindi proseguirei con il prossimo brano, restando sempre in tema di grandissime voci, e ci andiamo ad ascoltare questo brano di Baby Way che si intitola Hard Times. È un brano del 1971, tratto appunto dall'album The Baby Way Story, The Living Legend. Questo autore, Baby Way, era caratterizzato da uno stile psichedelico del soul e un tono vocale decisamente particolare che alcuni vanno a in cui si può notare una somiglianza con Otis Redding. Questo album di debutto di Baby Way del 1971, sfortunatamente Baby Way non ha mai avuto modo di vederlo pubblicato perché è morto per un attacco di cuore poco prima dell'uscita dell'album. Quindi ci andiamo ad ascoltare Baby Way con Hard Times, un altro brano che affronta in maniera potente i temi sociali e gli scontri sociali dell'America dei primi anni 70. Baby Way con Hard Times. If they're having fears, I'm a part of house. I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. For my body house, I feel like me another familiar face of creed and a race a brother. Wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. Have no love to be found. Having a hard time in this crazy town. Sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body. E questo era Baby Way con Hard Times, brano del 1971. Quindi, restando in tematiche sociali, molto forti. Mi viene abbastanza naturale pensare al James Brown degli anni 70 e a questo pezzo in particolare che si intitola Say It Loud, I'm Black and I Am Proud. Questo è James Brown. Questo era James Brown con Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Con il prossimo pezzo ci andiamo ad ascoltare un cantante che si chiama Joe Tex, con un pezzo famosissimo per gli amanti del Northern Soul. In realtà questo non è un pezzo propriamente Northern Soul, ha sicuramente una grossa, grossa influenza della musica disco e le atmosfere. Il retrogusto si può annusare anche del sano funk. Quindi ci andiamo ad ascoltare Joseph Arrington Jr., meglio conosciuto come Joe Tex, che appunto nella sua carriera ha mescolato tantissimi stili del continente americano, come il gospel, il rhythm and blues, il funk, il soul e addirittura la musica disco. Ci ascoltiamo questo pezzo di Joe Tex che si intitola Under Your Powerful Love. Joe Tex. I was in Detroit, Michigan not too long ago, visiting with some friends of mine. I checked in at the 20 Grand Motel where I always stay and hang out with the brothers. As I checked in and put my bags down, I could hear this strange conversation coming from next door. And it seems like this young lady had gotten into this gentleman's room and really didn't know how she got there. Or at least that's what she was trying to run down on him. It seems like she had had too many martinis. She was trying to beg the man off. And of course, you know, I was gonna listen to see how it was gonna come out. I missed some of the conversation, but where I came in was when she was saying to him some words, something like this. Let me tell a story. She said to him, she said, "If you said I said it, then I guess I said it. But you had me under your power, love. I walked in the club, and mister, there you were. Under your power, love. You were at the bar, looking like a movie star. Showed it look good. Under your power, love. We had a drink, and I couldn't think. No. Under your power, love. You said you'd be back in a flash. Yeah. I was under your power, love. Oh. Yeah, women can get themselves in some strange situations sometimes. And when it comes right down to the real nitty-gritty, they want to renege on the deal. But I kept on listening, because I wanted to see how it was going to come out, y'all. And as she was crying and trying to want to rap down to him, she kept on pleading in some words just like this. Let me tell a story. This is just how it went. She said to him, she said, "Listen, you went and rented a room, and pretty soon you had me under your power, love. Then you start squeezing me and teasing me, and I was under your power, love. You tried your best to unzip my dress, yeah. I was under your power, love. I told you no, and let me go. La voce era di Joe Tex e il pezzo si intitolava Under Your Powerful Love. Proseguiamo con la selezione ai giradischi. Il pezzo già pronto è un pezzo di Jimmy Holiday e si intitola The New Bread. Un pezzo assoluto, a parer mio, un capolavoro assoluto della musica soul e in particolare della scena Northern Soul. Due cenni storici su chi era Jimmy Holiday. Jimmy Holiday è nato nel 1934 a Sallis, in Mississippi, ed è scomparso nel 1987. È stato un cantante americano e uno scrittore di musica principalmente R&B. Ha registrato per la Everest Records durante gli anni 60 e più in là si è spostato per l'etichetta Minute Records di New Orleans. Le sue composizioni, i suoi brani più famosi sono stati Put a Little Love in Your Heart, scritta insieme a Jackie DeShannon. Negli Stati Uniti ha raggiunto anche vette molto alte della classifica, addirittura arrivando al quarto posto nella Hot 100. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare questo pezzone totale di Jimmy Holiday che si intitola The New Breed. Gather round, girls, and take a look at me, 'cause I got something that you oughta see. Yeah, the things I do, I should please. A new breed, all of a brand new breed. Questo pezzone era appunto Jimmy Holiday con The New Breed, pubblicato su un'etichetta storica come l'etichetta Kent. Quindi incombe, è lì che mi fissa, quindi partiamo con la nostra rubrica L'America sta qua. Il nostro Toto ci annuncia l'America sta qua per l'appunto, quindi la nostra rubrichetta sui brani soul in italiano. Per questa puntata ci andiamo ad ascoltare un nome ormai familiare per Soul Time, per chi ha la pazienza di ascoltarci. Ci andiamo ad ascoltare anche questo pezzo di Edwin Starr, un pezzo che rientra in quel filone di musica soul, più specificatamente di Motown, che negli anni 60, con l'intenzione di espandere il proprio mercato in giro per il mondo, ha iniziato a far incidere alla propria scuderia di cantanti le loro hit in lingua straniera. In questo caso specifico, nel 1969, Edwin Starr si prese la briga di cantare in italiano un suo gran pezzo che si intitola Oh, How Happy, in italiano per l'appunto, intitolandolo, guarda un po', Dolce Amore. Una collezione interessante di tutti questi brani della Motown tradotti in lingua non inglese si può trovare in una recente pubblicazione in un set di due CD che si intitola Motown Around the World The Classic Singles. Quindi ci andiamo ad ascoltare, tanto per curiosità musicale, questo pezzo del 1969 di questa grandissima voce di Edwin Starr che si intitola Dolce Amore. Dolce amore, io ti amo. Dolce amore, io amo te. Sono sempre che penso a te, ora quasi quasi che amo per parlare a te, per sentire te e per dirti cosa. Dolce amore, io ti amo. Dolce amore, io amo te. Rieccoci in studio dopo questa abbuffata di glucosio con Dolce Amore di Edwin Starrs. Ritorniamo al soul in lingua inglese. Dopo questo brano appunto di Edwin Starrs, voglio proporvi un brano di Clay Hammond. Clay Hammond è un cantante americano di R&B e soul, nato in Texas nel 1936. Ha inciso non tantissimi brani con la propria voce, ma è stato un grandissimo scrittore di musica soul. Si ricorda in particolare la scrittura del brano Part-Time Lover per Little Johnny Taylor, che nel 1963 arrivò al primo posto della classifica R&B negli Stati Uniti. Lo stile di Clay Hammond è in realtà molto molto interessante, perché è stato in grado di mixare sapientemente Southern Soul, Northern Soul, Gospel e Blues. Quindi abbiamo una chicca questa sera, ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Clay Hammond che è rimasto inedito per decenni e decenni ed è stato pubblicato due o tre anni fa, non credo di più, due o tre anni fa esattamente, dalla Kent di Los Angeles. Quindi ci ascoltiamo questo pezzo appunto inedito fino a due anni fa di Clay Hammond, che si intitola My Girl Is Gone Away. Now here I am, all by myself. I close my eyes, and I just can't sleep. I tossed and turned, then I paced the floor. I just can't believe that she's not with me anymore. Let me tell everybody, my girl is gone away. My girl is gone away. She done spent, and I can't forget her. I feel so bad because I let her get away. Hey, a cloud of misery hanging over me, and when it rained, endless pain will drown me in a sea of loneliness. Baby, I need your love, but love is gone. There's nothing but memory of happiness she once shared with me, and a crowded room is filled with emptiness when my heart reminds me of what my eyes don't see. Let me tell everybody, my girl is gone away. My girl is gone away. She done spent, and I can't forget her. questo era l'inedito di Clay Hammond, My Girl Is Gone Away. Proseguiamo con la musica, è già pronto sul piatto un pezzo di P.P. Arnold, all'anagrafe Patricia Ann Cole, una cantante di Los Angeles nata nel 1946. P.P. Arnold è nata in una famiglia gospel, in cui tutti erano impegnati nel cantare musica gospel, e ha fatto parte da ragazza delle The Eye Cats, un gruppo di coriste che accompagnavano le esibizioni niente poco di meno che di Ike e Tina Turner. Quindi P.P. Arnold ha iniziato così la carriera, cantando, facendo i cori di Ike e Tina Turner. Poi intorno al 1966 si è trasferita a Londra per iniziare una propria carriera da solista, firmando fin da subito un contratto con la Immediate Records, per la quale ha inciso alcuni brani, tra cui sue interpretazioni di The First Cut is the Deepest e Angel in the Morning. Nel 1970 appare come corista anche nell'album The Kids No Good di Barry Gibbs e partecipa a Live at the Talk of the Town di un certo Stevie Wonder. Ci andiamo ad ascoltare questo suo gran brano che si intitola Everything's Gonna Be Alright. Lei è P.P. Arnold. Everything's gonna be alright. Allora, questa sera ho impilata un po' di roba con l'etichetta K Kent's attaccata su, quindi proseguiamo con la Kent Records, questa etichetta di Los Angeles, e ci ascoltiamo un pezzo dei The Brilliant Corners che si intitola Three Lonely Guys. Lonely Guys, The Brilliant Corners. Proseguiamo con la musica e ci andiamo a ascoltare un pezzone totale cantato dagli The Ad Libs. Gli Ad Libs sono stato un gruppo americano vocale, prettamente vocale, attivo, fondato nel 1000 durante gli anni 60 a Bayonne, una cittadina del New Jersey. La loro caratteristica principale è che c'era una voce femminile molto potente, accompagnata come backing vocals, come cori, da un coro doo-wop maschile. Quindi ci ascoltiamo questo grandissimo pezzo degli Ad Libs che si intitola You'll Always Be in Style. The Ad Libs. Sweet honey. di Adlibs con You'll Always Be in Style. Anche questa puntata sta per concludersi e vi lascio con quest'ultimo pezzo. In queste ultime puntate mi ero completamente dimenticato dell'esistenza della rubrica più inutile della storia della radio mondiale, però ve la ripropongo. Questa rubrichetta si chiama La musica che mi ascolto nelle cuffie mentre vado al lavoro, e vi saluto con questo pezzo di Larry Davis, un pezzo del 1970 che si intitola I've Been Hurt So Many Times. Lui è Larry Davis, vi saluto e ci sentiamo la prossima puntata mercoledì alle 19 su Radio Wombat. Yes, they have.